Ciao a tutte e tutti, questa è la nuova puntata di Uru, Musica dall'Africa e geograficamente stasera ci spostiamo più a sud rispetto alla scorsa trasmissione e cioè ci andiamo in Zimbabwe, paese con una grande tradizione musicale. Zimbabwe è l'ex Rhodesia del Sud, la Rhodesia del Nord era lo Zambia, così rinominato subito dopo l'indipendenza, proprio perché Zimbabwe, o meglio Gran Zimbabwe, è un sito, attualmente un sito archeologico nelle vicinanze di Masvingo, che è la terza città dello Zimbabwe, in cui si sono evidenziate, sono state scoperte costruzioni in pietra nell'età degli inizi, diciamo, dell'era cristiana. Così, diciamo, è saltata tutta l'impostazione biancocentrica, diciamo, eurocentrica, che vedeva la storia dell'Africa partire da quando l'Africa è stata colonizzata dai bianchi, dagli europei, mentre invece queste rovine testimoniano la presenza di una civiltà estesa ed evoluta fin dall'inizio dell'attuale era cristiana. Come dicevamo precedentemente, ritornando all'ambito musicale, la scena dello Zimbabwe è molto varia, con molti generi musicali che si intersecano come una sorta di crossover, si intersecano tra di loro ed è si è continuamente evoluta nel corso degli anni. Ma diciamo che i capisaldi della musica dello Zimbabwe sono due. Uno è uno strumento, l'ambira. Il secondo è il chimurenga, cioè quella sorta di musica che allora, il chimurenga significa lotta per la libertà. Nella storia del Zimbabwe si distinguono due chimurenga. Il primo all'inizio, alla fine dell'Ottocento, in cui ha visto le varie fazioni, le varie etnie dello Zimbabwe combattere contro i primi colonizzatori. E il secondo chimurenga è quello a cui ha originato la liberazione, diciamo, dal dominio bianco, in questo caso dal dominio sudafricano, alla fine degli anni 70, inizio 80. E c'è un tipo di musica molto particolare che è una summa, diciamo, di tutta quella era la musica popolare suonata e ballata fino a quel momento in Zimbabwe, che viene appunto chiamata chimurenga perché era un tipo di musica che accompagnava, diciamo, sia con i testi, sia con i suoni, appunto, la lotta di liberazione per l'affrancamento del popolo zimbabweano dal colonialismo sudafricano. E quindi appunto oggi ci andiamo a sentire alcuni dei più importanti musicisti sudafricani o comunque quelli che hanno caratterizzato nel corso degli anni il panorama musicale che, appunto, come dicevamo precedentemente, è molto vario, ed oltre alla chimurenga, che possiamo dire che è probabilmente l'unico genere musicale che prende il nome da una lotta di liberazione. Infatti, chimurenga, come abbiamo detto prima, vuol dire appunto lotta di liberazione, è una parola shona. Lo Shona è una delle due lingue maggiormente parlate nello Zimbabwe, l'altro è l'Mbebele, e poi appunto dicevamo, il panorama musicale è molto vario, e così anche i generi musicali, c'è una musica neotradizionale che seppur con elementi appunto moderni, però si innesta su quella della tradizione musicale dello Zimbabwe, caratterizzata dalla presenza ubiqua di questo strumento particolare, di questa ambira, su cui torneremo in seguito, un altro genere musicale molto, molto popolare, molto conosciuto e molto suonato è il jiti, che si è sviluppato specialmente durante gli anni 80, nel periodo immediatamente successivo alla decolonizzazione. Troviamo anche la sungura e dendera, anche questi sono, come dire, generi musicali particolari dello Zimbabwe. Sono un misto di basso, chitarra ritmica e chitarra solista fuse insieme, che vanno a caratterizzare una specie di rumba, un ritmo molto, molto beat, molto ritmato. l'immancabile gospel che caratterizza tutta la scena, che caratterizza la scena musicale di tutta l'area dell'Africa del Sud, e quindi non solo Zimbabwe ma anche Sudafrica, Lesotho, Swaziland, Zambia. In questo caso il gospel zimbabweano si è poi evoluto nel canto a cappella, di cui sono anzi non uno degli esponenti principali ma probabilmente gli esponenti principali, Black Mfulosi. Black Mfulosi insieme chiaramente ad altri gruppi, ma questi diciamo sono quelli più conosciuti non solo all'interno del Zimbabwe ma anche al di fuori dello Zimbabwe. I membri provengono dal popolo Ndebele, che è appunto la seconda etnia dello Zimbabwe, che è strettamente legata agli Zulu. Black Mfulosi sono famosi all over the world, in tutto il mondo, per loro canti a cappella, e nel loro spettacolo c'è anche il gruppo di danza che si è formato nel 1982, sia appunto il gruppo musicale, diciamo, il gruppo cantante, il gruppo canore e il gruppo di danza, e si sono formati a Bulawayo. Erano dei compagni di scuola che appunto hanno cominciato a costituire questo ensemble, che prende il nome da Mfulosi Omnana, che è un fiume del Sudafrica, il posto che viene riconosciuto come il posto degli antenati da parte dell'etnia Ndebele. E Bulawayo appunto è la seconda città del paese dello Zimbabwe, e le performance di Black Mfulosi sono coinvolgenti perché uniscono questo canto a cappella con l'esuberanza della danza, e le loro musiche, le loro canzoni si rifanno specialmente alle musiche delle tradizionali delle regioni muniarie sudafricane, anche perché in Sudafrica andavano a lavorare molti abitanti dello Zimbabwe, proprio perché appunto c'era un po' più di possibilità di lavoro nonostante tutte le restrizioni terribili che vivevano imposte al regime dell'apartheid, e quindi questi canti sono canti dei rifacimenti, diciamo, dei canti dei primi minatori migranti del XX secolo, che vivevano in ostelli per soli uomini e che la sera si riunivano e non avendo a disposizione neppure sia i soldi e quindi gli strumenti musicali, diciamo, esprimevano il loro soul, diciamo, musicale attraverso il parlato, diciamo, attraverso il canto a cappella. Quindi partiamo con il primo brano di questa puntata, sono i Black Mfulosi con Elele Mama Africa, proprio un inno all'Africa e alle lotte di liberazione africane. Uyelele mama siya chavula tina. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Zimbabwe. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Zambia. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Malawi. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Mozambique. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Angola. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Botswana. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Lesotho. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. Swaziland. Elele mama, elele mama. Au yeah. Elele mama, elele mama. South Africa. Elele mama, elele mama. Siya chavula tina. Elele elele elele mama. Siya chavula tina. Elele mama, elele mama. Siya chavula tina. Elele elele elele mama. Siya chavula tina. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Morocco. Elele mama, elele mama. Wow, Somalia. Elele mama, elele mama. Wow, Ghana. Elele mama, elele mama. Wow, Nigeria. Elele mama, elele mama. Wow, Gambia. Elele mama, elele mama. Wow, Sierra Leone. Elele mama, elele mama. Wow, Kipiti. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. jabu latina E questi erano il primo pezzo che abbiamo ascoltato, appunto questo stile particolare cantato dai Black Confulosi, uno stile mbube o township a cappella, che è un suono unico, esaltante e meditativo, che si concentra su una vasta gamma di temi come il riscaldamento globale, il rispetto per se stessi e gli altri, i diritti umani e l'AIDS. E i Black Confulosi infatti si descrivono e descrivono le loro canzoni come giornali vocali e quindi come cronache di quello che succede in Africa, tenendo presente anche che le loro canzoni vengono spesso, molto sovente, riprese anche da altri gruppi, da altre situazioni, dalle scolaresche, da gruppi di amici, vengono ricantati all'interno, diciamo, dei circuiti sociali, dell'area sociale, durante i matrimoni o durante le visite tra amici, proprio perché in un paese dove ci sono sì le radio e le televisioni, però diciamo non c'è questa diffusione pervasiva, diciamo, di questi mass media, questi giornali vocali, come prima magari nel Medioevo, diciamo, in Europa, appunto servono a far conoscere quello che succede magari, o quello che è successo nel villaggio accanto, oppure quello che succede, diciamo, a livello generale nel mondo, insomma. Adesso leggiamo un attimo i social della radio, il sito wombat.noblogson.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail postawombat@insiberia.net. Allora, la radio ha scelto il suo logo, che sarà il logo principale, diciamo, che è un wombat attaccato a un traliccio della radio, praticamente, e sarà quello utilizzato principalmente, ma siccome tutti quelli arrivati erano veramente bellini, abbiamo deciso che in un modo o nell'altro verranno usati tutti. La premiazione per il vincitore, premiazione tra virgolette, diciamo, per il vincitore, cioè colui che ha disegnato il logo, sarà il 12 di marzo alle 3 alla polveriera durante il mercato contadino. Radio Wombat farà un banchino in quell'occasione e saranno disponibili le prime t-shirt con il logo. Un'altra cosa da dire è una nuova trasmissione che partirà lunedì alle 13.30 ed è Passaggio a Nord-Ovest, che è una trasmissione di informazione con interviste, reportage, eccetera, su persone che a cui interviste fatte alle persone che fanno le cose e nei quartieri in cui vivono o lavorano. Cioè la trasmissione è fatta da... Sì, la prima trasmissione è un'intervista agli ex operai Sevens oramai, perché la lotta che gli operai hanno portato avanti contro la proprietà per evitare i licenziamenti si è conclusa con i licenziamenti di tutte le maestranze, e appunto comunque l'intervista è attuale non solo perché ripercorre e quindi fa diventare una sorta di patrimonio storico del quartiere, perché appunto durante la lotta c'è stato un grosso movimento di solidarietà anche da parte degli abitanti del quartiere in cui era situata la Seves, e quindi non solo come testimonianza di questa lotta, ma anche perché durante l'intervista emergono situazioni e fatti che potrebbero, anzi saranno molto importanti per un futuro, perché l'area Seves con accanto l'area Cerdec qui nel quartiere di Castello Sodo rimangono aree dismesse, sono 50.000 metri quadri, e si paventa una grossissima speculazione edilizia che andrebbe a sconvolgere l'apparato, diciamo, la vita sociale e anche la disposizione urbanistica del quartiere. E quindi appunto le indicazioni degli operai sono e saranno utili anche per un'eventuale iniziativa da contrapporre alla cementificazione del quartiere. Ricordiamo che questa è la prima trasmissione di Passaggio a Nord-Ovest. La trasmissione andrà in diretta tutti i lunedì alle 13.30 con la replica della trasmissione dal martedì al venerdì sempre alle 13.30, poi la settimana successiva una nuova trasmissione, via dicendo. Sono interviste, ma questa è un'intervista, ma ci saranno anche interventi durante la trasmissione in diretta, cioè in studio direttamente, e comunque chi ha proposte, indicazioni o semplicemente segnalazioni rispetto a quello che succede nel quadrante nord-ovest di Firenze ci può scrivere informandosene appunto a quella che è l'email della radio postawombat@insiberia.net oppure anche a soscastello@inventati.org. Il prossimo pezzo è un pezzo di GIT, questa musica particolare sudafricana, scusate, zimbabweana, e sono i Four Brothers, che non sono fratelli, sono tra gli elementi più importanti di questa musica. Si sono formati già nel 77, quando ancora lo Zimbabwe si chiamava Rhodesia, e suonano appunto questo cheat che si basa su una velocità, su una chitarra che va molto veloce e che comunque il suono, anche se è un suono a corde, ha comunque una reminiscenza della onnipresente mbira, ed è conosciuto appunto come jit, e quindi questi i prossimi sono i Four Brothers, il pezzo si intitola Vimbai. Thank you. Mwari Tia gantora moyo kwenda wangu nega Tiri wa shichi hano murondeza Mesaga kapelezwa tzitzine ngoni 11 febbraio era la giornata mondiale della radio, una giornata internazionale istituita dalle Nazioni Unite a partire dal 2011 per celebrare la radio, una forma importante di libera espressione in tutto il mondo. L'UNESCO ha dato alcune statistiche sull'impatto della radio in Africa. Per esempio, l'83% dei tanzaniani ha dichiarato di avere notizie e informazioni esclusivamente dalla radio. La radio è il mezzo più accessibile e utilizzato in Zambia. L'accesso alla radio e alla televisione nelle aree urbane è circa lo stesso, l'85% per la radio e il 79% per la televisione, mentre nelle zone rurali la differenza è significativa, il 68% per la radio e il 26% per la TV. In 11 paesi presi in esame in tutta l'Africa, la radio commerciale locale è cresciuta in media del 360% tra il 2000 e il 2006, mentre le radio comunitarie sono cresciute di un impressionante 1386%, sempre nello stesso periodo. Quindi perché? Perché nelle zone rurali naturalmente spesso non c'è l'elettricità, per esempio, e quindi la televisione è assolutamente inutile, e importante le radio comunitarie perché essendo divisi in piccoli villaggi, la comunicazione si restringe, oltre che all'interno del proprio villaggio, ai villaggi immediatamente accanto. Quello che succede fuori da quest'area nessuno lo sa se non attraverso la radio, che appunto non avendo bisogno dell'elettricità è l'unico mezzo disponibile. E appunto da una radio che vuole essere comunitaria, vediamo gli appuntamenti, o almeno quelli riteniamo gli appuntamenti più importanti di questa settimana, cominciando da domani. Domani all'Emers sarà una serata, anzi una giornata, perché sostanzialmente l'inizio dell'iniziativa è alle 18, e in solidarietà con i migranti dell'Est Aiazione. Quindi alle 18 l'assemblea con i migranti e le migranti dell'Est Aiazione, attualmente occupanti in via Spaventa, prosegue la serata con la scena benefit alle 20.30 e alle 22.30 una dancehall reggae con il generale Junior Franchi, Ronnie McAdoo e Supaghi. Il tutto è chiaramente benefit per le lotte dei migranti, che appunto da circa un mese e mezzo a questa parte, dopo il terribile incendio all'Est Aiazione, dove appunto che avevano appunto occupato da diverso tempo, si sono trasferiti, hanno rioccupato in attesa di una soluzione alla loro vertenza, ai loro problemi, diciamo, alle loro rivendicazioni, hanno occupato in via Spaventa. E quindi appunto domani appuntamento all'Emerson dalle 18 in solidarietà con i migranti e le migranti dell'Est Aiazione. Lunedì invece alle 18 alla facoltà di lettere in piazza Brunelleschi ci sarà un incontro con Davide Grassi, un corrispondente di Radio Eureka, di InfoOut, che è tornato diciamo da Kobane, da Rojava, e quindi dove appunto si sta portando avanti questo esperimento diciamo di confederazione, diciamo, di democrazia dal basso, nello stesso momento portando avanti una dura lotta armata contro l'ISIS, contro lo Stato Islamico, e quindi appunto un incontro con Davide Grasso che aggiornerà rispetto a quella è la situazione in Rojava e porterà diciamo notizie in prima persona, chi ha vissuto in prima persona una parte, diciamo, un momento importante di questa lotta da parte degli abitanti del Rojava. Sempre lo stesso giorno, sempre lunedì, alle 21 invece all'SMS di Peretola, un'assemblea popolare contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. E la settimana prossima, appunto sia lunedì che martedì, sono caratterizzate da iniziative per preparare, per partecipare allo sciopero internazionale delle donne l'8 marzo, appunto, con un gioco di parole rispetto a quello che è sempre stato la giornata internazionale delle donne, l'8 marzo, che vedrà come momento culminante un'iniziativa, un corteo che partirà alle 6, alle 18, da Piazza Santissima Annunziata. Mentre invece venerdì prossimo assegna alla Sala Blu del Consiglio Comunale un'assemblea antifascista contro la presenza di forza della sede di Forza Nuova, Movimento Neofascista Assigna, che vedrà, ci sarà appunto un'assemblea, una presentazione del libro su quelle sono appunto le reminiscenze neofascismi attuali, insomma. Questo è, diciamo, quelli sono gli appuntamenti più significativi della prossima settimana. Adesso passiamo ad un altro musicista dello Zimbabwe che è nato nella capitale, cioè Harare, dotato di una voce profonda e di un talento per i testi soprattutto, che spesso parlano di vita quotidiana e delle lotte delle persone per andare avanti, e nel periodo invece della lotta contro il colonialismo soprattutto su questo. Quello che lo ha fatto conoscere più di tutti in Zimbabwe è stato il fatto che lui ha girato nelle zone più remote del paese, ha fatto concerti dappertutto, cosa che naturalmente l'ha fatto conoscere e anche guadagnare il rispetto per appunto essere andato in questi posti solo per farsi sentire e per suonare. Nella sua musica ha incorporato elementi di diversa tradizione, tant'è che il suo stile è chiamato Tuku Music, cioè Tuku è il suo soprannome, ma la sua fama è dovuta principalmente alle parole delle sue canzoni. La maggior parte delle sue canzoni infatti si concentrano su questioni sociali ed economiche, per esempio il suo impegno per combattere l'AIDS attraverso l'approccio aperto nelle sue canzoni ha contribuito notevolmente ad aprire la persone su questa malattia e a una responsabilità nella cura, nelle visite, eccetera, nella comunità. Quindi di lui sentiamo Dai Ndine Mukuma, Oliver Mutsu. Yeah. Kusi era i suoi Black Spirits, Dai Indine Mukoma. Una notizia ora che proveniente dai paesi, un paese confinante, un paese vicino allo Zimbabwe, cioè la Tanzania, è una notizia abbastanza ottimistica, insomma. Per frenare l'accaparramento dei terreni produttivi da parte di investitori stranieri, il governo di Dodoma, cioè della capitale tanzana, starebbe per varare una legge che riduce di 2/3 gli anni di concessione e vieterebbe l'acquisto di terre di proprietà dei villaggi e delle comunità locali. Quindi il governo tanzania vorrebbe limitare il rischio di speculazione sulle sue terre e sta lavorando dietro una fortissima pressione popolare, un'organizzazione che ha messo insieme vari villaggi, anzi svariate migliaia di villaggi, in particolare da parte dell'etnia Masai, villaggi abitati dall'etnia Masai, e quindi una nuova legislazione terriera che dovrebbe entrare in vigore in questo anno e prevederebbe la riduzione del periodo di concessione delle terre agli stranieri da 99 a 33 anni. E questa modifica, frutto di lunghi mesi di negoziazione, dovrebbe limitare l'intento speculativo degli investitori che non valorizzano le terre a loro assegnate ma le utilizzano come bene rifugio, come qui mattone ci ricordiamo da questo punto di vista lo scandalo della Lega Nord, che nonostante tutto il loro razzismo appunto era andata a investire nelle terre, in terre tribali tanzane. E le nuove disposizioni prevederebbero anche la riduzione di un altro fenomeno, e cioè della contrattazione diretta tra l'investitore e il capovillaggio per ottenere la concessione delle terre da parte delle comunità, quindi più nessun filtro. Nonostante la legge attualmente preveda già il controllo diretto del centro tanzano per gli investimenti, gli stranieri scavalcano la burocrazia e contrattano singolarmente e concludono accordi che rimangono opachi, un po' un tentativo come di gabbare le popolazioni locali, e quindi appunto le popolazioni locali si sono organizzate hanno talmente premuto che il governo sta per emanare questa legge. Secondo il codice terriero del 99 la terra è di proprietà dello Stato, unico soggetto in grado di concedere diritti di proprietà o di affitto dei terreni. In un paese dove l'agricoltura rappresenta ancora la principale fonte di guadagno per la popolazione, la terra è un bene preziosissimo. Negli ultimi anni la Tanzania è stata soggetta di grossi speculazioni e investimenti terrieri. La terra concessa a investitori stranieri è pari all'1% di quella arabile, 266.000 ettari, ma queste sono chiaramente le terre migliori e le terre in cui agli stranieri non interessa chiaramente continuare a ararle, ma facendo le speculazioni edilizie. Quindi in questo contesto la nuova politica sulla terra dovrebbe limitare l'impatto degli investimenti che non arrivano mai nella fase vera e propria di utilizzo della terra per uno scopo che serva a migliorare la resa dei terreni. Non sembra però cambiare di molto effettivamente per le terre destinate comunque alla pastorizia, perché qui stiamo parlando delle terre destinate all'agricoltura, spesso considerate dal governo poco valorizzate, quindi oggetto di concessione più ancora delle terre agricole, delle terre coltivabili. In questa problematica vuole dare una risposta Edward Lure Palmelo, che è un Masai, che ha costituito un'associazione, perché ha vissuto la sua pelle l'allontanamento forzato dalle terre della sua famiglia, e grazie a questa associazione Ujamaa Community Resource Team, ricordiamo Ujamaa è il vocabolo che è utilizzato in Tanzania nella lingua Swahili per identificare quelle sono le proprietà comuni, il bene comune. E quindi con questa associazione è riuscita a garantire la sicurezza dei pascoli comunitari dell'ecosistema nella sua terra, nella sua zona. È un lavoro che gli è valso l'Environment Goldman Prize l'anno scorso, cioè nel 2016, e quindi in questo modo la terra allettiva, almeno quella in dove ha agito questa Ujamaa Community Resource Team, non rischia di essere ceduta, perché la decisione deve essere condivisa. Questa decisione condivisa più volte è stato ribadito che la terra non è in vendita, la terra è per, di chi ci abita e di chi la coltiva. Siamo ad un altro cantante, musicista dello Zimbabwe, Thomas Mafumo, nato nel 1945, all'età di 10 anni si sposta a Mbare con i suoi genitori. A quel tempo Mbare era un ghetto nero e un centro di movimenti di protesta contro il regime coloniale segregazionista. Questo quartiere mette Thomas per la prima volta a contatto con la brutalità della polizia contro i manifestanti. All'inizio cantava in inglese, poi realizzò che doveva esprimersi in lingua africana per poter comunicare alla gente la chiamata per la lotta per l'indipendenza. Nel 78 fonda il suo attuale gruppo, i Black Unlimited, e già allora la musica chimurenga, come abbiamo detto prima, si era già trasformata in un simbolo della lotta contro l'ingiustizia, in una Rhodesia, come era chiamata allora lo Zimbabwe, devastata dalla guerra. Attraverso la musica ha continuato a provocare il regime coloniale, denunciando la proprietà, la povertà e sostenendo la libertà. Nonostante la censura e la repressione, ha continuato e continua adesso per i diritti civili, per le libertà, eccetera. Quindi vi facciamo sentire Buka Tiende, Thomas Mfumo. Whoa. Ripetiamo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, la mail postawombat@siberia.net. Dal sito wombat.noblogs potete scaricare i podcast delle puntate che vi siete persi, di tutte le trasmissioni della radio. E il 25 di marzo, in occasione del concerto dei Nuovi Rumori, Radio Wombat farà una pericena di sostentamento, quindi venite il 25 di marzo a pericena e dopo concerto con i Nuovi Rumori. È in forma più o meno palese, insomma, comunque in tutte, con quasi tutti i pezzi che avete ascoltato fino ad ora, era presente questo strumento, questa mbira, che è lo strumento tradizionale dello Zimbabwe, diffuso in tutto il paese, diffuso in ambedue le etnie principali dello Zimbabwe, cioè gli Shona e gli Ndebele. La mbira è uno strumento particolare, è detto anche pianoforte a pollice, perché ci sono queste lamelle, un lamellofono sostanzialmente costituito da una cassa di risonanza che anticamente, tradizionalmente era una zucca vuota, a cui vengono fissate queste lamelle di metallo disposte in fila per lunghezza crescente, che vengono pizzicate nel pollice. Chiaramente la zucca vuota successivamente è stata sostituita, anche se non del tutto, da altri contenitori vuoti, diciamo così, in legno in particolar modo. L'ambina è presente in diverse regioni dell'Africa, però appunto lo Zimbabwe è quello in cui è lo stato, la zona in cui è più diffusa, e ha in genere 32 tasti, ci sono questi 32 tastini di metallo, a volte possono essere anche di bambù. Sotto c'è questa cassa di risonanza, che appunto anticamente era una zucca, ma può essere anche una bottiglia o comunque degli oggetti in una forma sferica, diciamo, un concava, ecco. E nella tradizione dello Zimbabwe la mbira veniva suonata in particolar modo durante le cerimonie religiose allo scopo di invocare gli spiriti. In epoca coloniale, chiaramente, come al solito, la tradizione lambira si era andata gradualmente estinguendo, proprio perché rappresentava la cultura zimbabweana, la cultura dello Zimbabwe. Quindi il regime coloniale aveva tutto l'interesse di proibire non solo le rivendicazioni politiche, ma anche le espressioni sociali e culturali della popolazione sostanzialmente, e quindi è stata riscoperta a partire dagli anni 60-70, quando è iniziata il secondo Chimurenga, appunto questa lotta di liberazione, e poi chiaramente ci ha avuto uno sviluppo ulteriore nel periodo successivo, specialmente nel periodo immediatamente successivo la lotta l'indipendenza dello Zimbabwe. Chiaramente un punto di riferimento per, come strumento per tutte le aree musicali dell'Africa del Sud, dell'Africa meridionale, ed è molto diffusa in particolare tra gli Shona. La parola stessa, appunto, abbiamo detto, l'ambira veniva utilizzata, suonata antiamente per questi riti religiosi di contatto con gli antenati. Infatti la parola stessa deriva dalla cerimonia religiosa che invocava gli antenati, che veniva chiamata bira. Vi facciamo ascoltare un gruppo che è, già il nome stesso lo dice, insomma, uno dei gruppi più importanti, uno dei gruppi che ha fatto dell'ambira lo strumento, diciamo, particolare, il suo strumento. Sono gli Mbira Masters of Zimbabwe, i maestri dell'ambira dello Zimbabwe, pezzo Taireva. Oh, yeah. questo era il nostro ultimo pezzo, quindi qui finisce la trasmissione di Uru. Vi ricordiamo che se avete perso qualche parte della trasmissione o volete riascoltarla, potete scaricare il podcast oppure potete ascoltare le repliche, che sono alle 10 la domenica mattina e il lunedì alle 14. Ciao a tutte e tutte, il prossimo venerdì alle 21.30.